vedi l'alba di un altro colore, l'ha dipinta la notte passata, sembra un quadro dedicato all'amore, il paesaggio di una vita sognata. Dare ascolto alle intuizioni, lo stesso sogno si vorrebbe rifare, ogni volta una nuova emozione, dice il cuore pronto a sperare. Vita in sogno non costa fatica, hai sensazioni e non devi affrontare questa vita, a volte nemica, che ti costringe sempre a lottare. La realtà, a volte perversa, ti fa pagare con il dolore, gioie sognate per una vita diversa e scoprire che i sogni non hanno colore. Amare la vita e tutte le cose, quando fa male sentire l'amore, pensa alle spine che hanno le rose, riempi la vita con lo stesso colore, ti accorgerai nella fatica, riesci meglio ad affrontare questa vita che mai c'è nemica, perché per vivere non basta sperare, perché per amare non basta sognare, perché per vincere dobbiamo lottare.